Ma si vede che mi si occhiali. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Come 20, sì. Ma gli ho fatto, c'avevo un filo di questo microfono staccato. Ho detto, ma non scende questa cosa? Hanno controllato e c'era un filo staccato. E io quanto ti sta arrivando? Ma? 1, 2, 3, 4, 5. 9 più 30, l'ago mi segna sul 3. E dove sei? A casa, ma Gava. Come mai? Non sto lavorando? Noi ci avevamo le visite dell'azienda, capito? Abbiamo finito che era mezzogiorno e mezza. E quindi ce ne siamo rientrati, no? Capo. Ma adesso controllo a vedere. Prova. 1, 2, 3, 4. Sono zero adesso. Gava. Oh, va bene, a voglia. L'aria buona. Sì, perfetta. Ho sentito l'altro giorno Massimiliano che stava provando quella tua, che dice che non usciva, invece ha detto che c'era il refrigerante tutto chiuso. Probabilmente Massimiliano spolverando, ma io li ho controllati, e poi non usciva di radio nemmeno, non uscivo manco di radio, io penso che fosse qualche cosa che dove sta partendo, oppure che magari si è ripreso. Infatti lui ha detto che l'ha attaccata e niente, l'ha controllata e l'ha tutto a posto. Sì, Massimiliano, ma tu spiegami una cosa, tu quando hai visto la portata mi sentivi anche parlare? Sì, ti sentivo, io però ti chiamavo e tu non mi sentivi. Ecco, allora è possibile, allora è possibile che sia io. Vabbè, lo sai cosa è successo? Che mi stavo spolverando tutti gli apparecchi, li ho tutti fuori dall'armadio, ho tutto pulito con quello spray per mangiarsi, mangia polvere, quello che dico, non si attacca più magari la fattacca di più, perché questo immobile attira molto la polvere, allora ho passato questo spray, e poi già che c'era l'ho passato anche negli apparecchi, l'ho fatto lucidi lucidi, e nel galassi l'ho passato sotto, poi mezzo alle manotte, lo sai come si fanno con le facce per pulirla al centro, lo facevo scorrere così, probabilmente facendo così, ho abbassato il martighino, però io guardavo lo square, se il martighino non ci ho pensato, la fine. Buonasera. Ciao, buonasera. No, sicuramente tu hai passato un refrigerante, capito? Perché in poche parole succedeva che tu quando andavi in trasmissione gli altri ti ascoltavano, però giustamente con il refrigerante tutto chiuso tu non ricevevi, cioè tu non lo sentivi, capito? Però noi sentivamo a te, capito? Avanti, clà. Ehi, buonasera. Volevo sapere se c'era Antonio Bombolo in ascolto. Ah, non te lo so dire perché io sono entrato 2 minuti che mi ha fatto questa connessione di questo microfono, ho fatto la chiamata e mi ha risposto Gianni, solo questo. Vabbè, volevo passare stasera a prendere la radio di Giuseppe e tornavo, ma non ci sono, verso le 8:30 e quindi la porto via domani mattina. Vabbè, buon proseguo, ci sentiamo a stasera, ciao a tutti. Ah, ciao qua, rientro. Ehi. Raga, va, buon lavoro allora. Massimiliano, sì, volevo dire che freghine, ho detto mai che guida. Sì, è successo così sicuramente. Infatti si è messo a ridere Massimiliano, ah, che figura di merda. Vabbè, può succedere, va. Può succedere a tutti. Ciao qua, buon lavoro e buona continuazione, va. Perché io stasera devo salire da bambino a ritirarmi il mio baracchinetto, l'ha finito. Ma io sono alle prese con un amplificatore, però non riesco a trovare qual è il transistor, il diodo bruciato, quindi adesso aspetterò. Perché portato io, un bel pesante, quando tu hai fatto. Aspetto un attimino, quando ha 2 secondi passa Fannino, vediamo se lo trova lui, perché io li ho controllati e mi danno tutti tensione, quindi non lo so, vabbè. Va bene, dai, che scappo, che è già tardi. Vado a mangiare, sono entrato adesso alle 3:30 e non uscire. Ci sentiamo dopo. Sono in ascolto, se rientra Antonio Bombolo già riprendo 2 minuti. Ehi, ok, là. Già, non ho capito una parola perché Claudio aveva parlato in due, ma facendo, aspetta ti dico con qua, con Lemenula. Sì, io sto uscendo con 5 a 4 volte e mezzo. Ho abbassato tutto, sto uscendo basso per vedere come si riesco a arrivare basso. E vedo che è abbastanza tranquillo anche quando è a un watt e cose. Si può parlare tranquillamente lo stesso. Città, città. Almeno in città, va. E ti ho detto che mi ha preso l'urbanico da lui, non è che abbia controllato di nuovo, ma ti pide il palco e dice, ma va a Napoli, perché poi lui è il mio, la mia chicca più pericata. Se non me la leggo davanti a luce, quando non c'era questa roba, non mi piace la manco modulare. Quando si è affezionato un apparecchio così, già, è così. Asco, adesso io stacco, metto così, ti dico esattamente quanto sono, aspetta, Così sono, un watt perfetto, perfetto, ma proprio un watt, come il segnale, la radio, già. 10, sì, la 10. Sì, va bene lo stesso. Quanto sei cedesimo, però se lo chiudo tutto qua, così tutto chiuso, si non vuole meno cosa di fare, ti guarda, mi sento. Ti sento, la radio è forte. Il segnale come? Già, prova. Ora c'è il telefono, fai. Il segnale è 9 più 5. E no, che non siamo venuti manco un rango di fatti, figurati. Vabbè, si può fare tanto, non è che... Guarda. Benissimo, speriamo che me l'abbia chiuso quel cavolo baracchinetto e così domani lo diamo a farlo vedere se piace a qualcuno. C'è qualcuno, devo portare giù un cavo che forse se lo prende un signore a mettere su una scavatoia. E cosa gli sta facendo? Niente, già me l'hanno regalato, è un Mobico uguale a quello che c'ho io, un Mobico BD40. C'aveva il finale bruciato, capito? Accendevo, andava in ricezione, ascoltavi tranquillamente, però in trasmissione non usciva. L'ho attaccato vino e c'era il finale bruciato. L'ha trovato da Vittorio, il 1969, gliel'ha piazzato ed è perfetto. Una bella radio ce l'ha. E l'ho omologato pure, capito? Perché non sale più di 5 watt. È buono. Io una volta che poi il cambio finale va bene, non è che... Gabriele si sta facendo esperienza sugli apparati. Sì, sta facendo qualcosina, va. Ma adesso a me, in questo che c'ho a casa, il Mobico ci ha messo l'attacco a 4 punte, mi ha fatto tutti gli altri baracchini che c'ho, ingresso Midland, così posso mettere tutti i microfoni, capito? Poi vabbè, mi ha sistemato quella scarpetta, la voce bruciata, pazienza là. Però già si sta piano piano, là, qualcosina già la fa. Lo fa solo per te, lo fa, oppure lo fa per tutti? Per tutti lo fa, pagandoli lo fa per tutti. Io lo pago quando me lo fa, e non è che lo faccio gratis. Beh, anche lui sta lavorando, non lavora per Gesù Bambino, ha ragione, ti può fare qualcosa in meno, ma... Gratis, una volta sì, ma poi è normale che sia così, là. Anche lui sta lavorando con la bagnotta. Come la luce, già, le televisioni tutto il giorno accesi, il saldatore tutto il giorno acceso, perdita di tempo, capito? Ma vabbè, già lo fa, a me per esempio cambiare il connettore mi ha preso 15 euro, gliel'ho portato io, gliel'ho comprato io. Mi ha preso 15 euro e gliel'ho dato. Ha pagato. Vabbè, ma c'è lavoro però, Massimiliano. Bisogna smontare la mascherina forse, vero? Sì, bisogna montare la mascherina e poi staccarne nel mobile, che ho visto che c'è tutto il frequenzimetro, bisogna staccare proprio la parte lì, non si è capito. C'è lavoro, dai, è giusto, ti è trattato bene. Come una volta, me lo ricorderò sempre. C'era da poco la frequenza. Mi ricordo sempre chi è questo miserabile, mi ha fatto pagare 20 euro per fare un attacco del microfono. E siccome io ero nuovo, ero ragazzino, avevo 14 anni, roba così, 15 anni, e gli ho detto se mi poteva fare l'attacco del microfono amplificato, questo qui, e così si vede che te lo faccio, lo paghi, perché io lavoro per essere pagato, vabbè, quanto è che devo dare? 20.000 lire. Passa la connessione, 4 caffetti da niente. Te l'ho dati, però poi non mi ha più visto. Poi piano piano già me li facevo io, quelli che potevo fare, quelli che non riuscivo a fare, che sono più complessi, me li facevo fare da persone più oneste, dai. Cavagava. Adesso c'ha un altro macchinetto, c'ha di Luciano, che non è mai in trasmissione, e io lo sto mettendo a posto, un 48. Già si sta, cioè, queste cosettine così, però magari mettere scheda di canali e cose così non ne sa, capito? Credo che non ne sappia perché non ha l'impianto elettrico, ma credo che se ha l'impianto elettrico lo faccia, credo. Poi bisogna vedere come sono tutte le cose, là. E cos'è? Che con la scheda dei canali non è solo a piazzare, poi vuole saputa regolare, Massimiliano, bisogna avere molto orecchio. Chi non fa ci mette 2 minuti, chi non l'ha mai fatto, normale che all'inizio ci mette un po' di più, però penso che lo faccia tranquillamente, perché uno che sa leggere gli schemi non ha nessuna difficoltà. A me, quando c'è lo schema non c'è problema, però ci vogliono anche attrezzature giuste per fare prove, mi ha capito già lui, attrezzature così non è che ne abbia. E vabbè, cosa devi fare? Che poi lui non è che gli interessi neanche più di tanto il baracchino, deve diventare solo bravo di lui, deve solo mettere visioni. Beh, televisori, tre cose, videoregistratori, tutte queste cose qua fanno loro. Radio TV fanno queste cose, radio, allora si facevano le radio anche, adesso buono, non so così di navigare ancora a radio. Allora sta facendo radio, sta facendo amplificatori, è sempre della radio parlo, sta facendo mixer, aggiustando colonnine, poi da poco ha fatto 2 radio veicolari valvolari di quelle macchine d'epoca, mi hanno portato 2 radio valvolari di vettura, che io non l'avevo mai visto, allucinante. Vero, ma io non sapevo manco che esistessero, fatti un conto. Ma mi hanno detto che c'erano anche i baracchi di valvolari per la macchina. Questo non posso dire, però io li ho visti con gli occhi miei, gli hanno portato 2 simili, quasi uguali, però valvolari. Sono di 2 macchine d'epoca, capito? Proprio quando è uscita quella macchina con quella radio valvolare. Si è bruciata, non sapevano dove portarla e lui sta sistemando anche questa roba antica così, mi hai capito? Beh, si è appassionato di queste cose qua. E me l'aveva detto Vittorio Volpe, perché c'era un apparato da macchina che era valvolare, c'aveva le valvole che si accendevano la batteria. Cavagava. Non valvole sicuramente a 12 volt, però sempre valvolare era. Per prima Massimiliano era tutto così, tutto valvolare. Io mi ricordo che il televisore di mamma all'inizio era tutto valvolare. Lo sai, per farglielo cambiare cosa ho dovuto fare? Gli ho dovuto tagliare il filo elettrico e fargli capire che era rotto. E te vabbè, non lo aggiustiamo più, lo compriamo a colori, perché era bianco e nero e valvolare, però io la mia valvola avvicinante che. Ma prima con le valvole così era anche raro che si rompessero queste cose, perché alla fine le valvole, vabbè, vanno a esaurirsi, capito? Però la roba valvolare secondo me è migliore della transistorizzata per me. È più calda la voce, queste cose qua, ma anche con la transistorizzata va bene. Allora, tu adesso prendi quel BV 131 a Ciacraglio, cazzo, non hai visto che del radio che li fa, tu lo attacchi con qualsiasi baracchino, le fa una radio che cazzo è favolosa, non distorce nulla, proprio zero, è piccolino e va bene. Cazzo, comunque, valvolari rendevano molto di più, la voce te la faceva più calda, specialmente gli apparecchi di attrazione base che erano quelli più rinomati a valvole. Ah già, l'altro giorno è capitato che eravamo con Luigi e l'ha chiamato Roberto, quello di Cagliari, e gli avevo detto che io l'avevo dato quello del BV131, mi ha detto ha fatto malissimo perché i lineari valvolari sono i migliori che possono esistere. Anche se te lo dice lui che modifica il radio, roba del genere, che mi ha detto che lui c'ha tutto quasi roba valvolare a casa. Io sto usando anche il transistorizzato, va bene uguale. Allora, comunque già sta andando bene questo microfono, là. Sto muovendo il cavo e ho visto che già rimane fermo. Là. Sì, va bene. Andrà bene. Cosa lasci via? Ho detto va bene, va bene. Ma lei ci tiene quello? Ma questo che sto usando è il Prox. Quello con l'ecco, così? Ma si può togliere l'ecco, si può toglierlo, basta chiudere le rotelle, tutti e due lo studio. Io ce l'ho un coso, tipo un M300, è sempre è un F22 dell'ALA. Sì, comunque guarda, quello che io avevo dato a Luca, che poi Luca ha dato a Claudio, quello della Irene, è una favola, si sente benissimo. Sì, una volta che tu ci abbini un microfono apparato, dove seguisce e basta. Questi così modificati vanno bene con il CTA, è inutile stare lì a cambiare, a fare cose. Il CTA è buono. Lo so, ma ci sono marche che sono simili a CTA, che scendono ugualmente. Allora, quando ho fatto la chiamata nel 12 che... Cosa mi aveva detto che se vendevo quel tornado lo voleva Gianluca. Poi non mi ha risposto nessuno, forse non ci sono. Gianluca, ci sei? No, nel 12 l'ho chiamato, capito, poco fa, sbussano una mezz'oretta fa. Mi aveva detto se vendevo quel tornado che lo voleva lui. Infatti lo stavo chiamando, se lo voleva. E gli mi ha detto se lo prende il Costanzo, mi sembra. Ma anzi me li ha. Io già sono quasi. Ma ripeto, bisogna fare bianco per vedere se può entrare qualcuno. Ah, gava gava. Già. Cazzo altro bene, ha detto cava gava. No, mi stava dicendo Liliana di tirare della roba e quindi non ho capito cosa hai detto tu. Hanno l'abitudine che quando parla il microfono parlano lo stesso, quindi è normale che non si senta. No, ho detto che quel tornado lo voleva Gianluca, mi ha detto se lo devi vendere fammelo sapere che me lo prendo io. E siccome me lo voglio vendere l'ho chiamato nel 12 per vedere se c'era, capito, e invece non c'è. Anche Luca il palottone? E se lo sento glielo dico io, non c'è problema. Ciao. L'unica cosa, vedi, che se lo ascolti con il K è spostato, se mi ascolti con un baracchino è perfettamente allineato, non gli compreso un bagoglio. No, ci sono tanti affari che viene fatto. Allora, io quello che c'ho in macchina, l'Alan 48 nuovo di Zecca, c'erano dei keyboard che sentiva tipo quello di Sabo Palotto e lo sentiva spostato, però entrava Luca era giusto, entrava lui e lo sentivo spostato, entrava un altro e lo sentivo giusto, i baracchini sentivo giusti. Ah, a questo punto mi sono fatto due figli, forse ho detto che il suo è spostato. E invece mi hanno detto che praticamente dipende sempre dalla M-Street, eccetera, ma come, come sintonizzato? Io l'altro giorno mi stavo ascoltando Claudio con il baracchino, con vari baracchini, e mi ascolta benissimo. Luca lo stesso, attaccato il Typhoon 2, e mi ascolta benissimo. C'era Corso, c'era Massimiliano Archimede, mi stavo ascoltando con il K e ha detto che ero spostato. Fabrizio uguale. Ah sì, vedi da voi. Ti hai spostato tu? Però loro erano con il K, capito? Mi stavo ascoltando con il K. E c'è Gaia, sta facendo un caldo, aspetta. Bombolo non è entrato? Oh, è un attimo. Ah, sì, è Antonio Bombolo. Vabbè, continuo a ascoltarti, ci sentiamo. Avanti, Massimiliano. Massimiliano. Oh, già. Già. Abbiamo ripreso là. Massimiliano. Nara. Non c'è il numero di Giuseppe Tornaro, tu non telefoni. Sa, passa. Ma non mandi un messaggio, ce l'hai 50 centesimi. Sa, passa. E fa la cortesia, così lo chiamo. C'ho il baracchino suo che è pronto. Aspetta un secondo che te lo mando. Grazie. Audio. Audio. Oh, grazie, guarda se ti è arrivato, te l'ho mandato. Già. Dimmi. Ma la sera non stai più lavorando? No, sto recuperando dei permessi che mi dovevano dare e sto recuperando. Cava cava. Ma non è che sia una cosa fissa, Finiti i permessi, devo rientrare purtroppo la sera. Vabbè, di loro già passano in fretta la sera. Che 180 ore devo recuperare, non ti dico altro. Sì, tanto non hai baccato 3 mesi a casa, zio. E fatto il conto, 10 ore alla settimana, recuperato. Quindi viene per un bel po' là. E io già va bene. E mi rilascio un po' almeno. Questo fatto di stare con il cuore da una parte all'altra, non è che sia... Perché poi voglio andare a lavorare, vado, prendo mio figlio da scuola, lo porto a casa e tutto. Non è... perché facciamo una voltatura come vogliamo andare, però adesso sto facendo dei lavoretti, quindi non può andarci, devo andare sempre io. Sì, vabbè, quando si va a casa la sera andiamo a bere. E infatti, cioè, va bene, sì, alle 4:30 ho voglia di posare. Io ho voglia ce l'ho. Adesso vogliamo trovare qualcosa con Costanzo lo straniero. Cosa di provare? Mi devo trovare con Costanzo lo straniero, mi devo lasciare un 48 da dare a Roberto Rapido. Ah, e tu lo porti a Gigi così? Ma io lo porto a un ragazzo che lavora qui a Sassari, ma di cosa? Di Domuslova, capito? Nel paese di Roberto. E il venerdì sera quando rientra glielo porto. Ah, cazzo. Poi ogni agio? Sì, Robbe già li viene bene a lui, capito? E cosa fai? Tanto lo dai a Gigi. Gigi magari se lo mette in camion, rimane 10 giorni in camion perché magari non coincide, che non lo vede e quello. E invece così ogni fine settimana se c'è qualcosa, si dà roba a cosa, Giorgio glielo scende. Roberto dovrebbe fare una cosa, aprire serrande e mettere sul negozio di riparazioni per apparati e cose del genere. E nulla lo trova lì per fare. Sai subito che avrebbe fatto? E non so, oppure si apre una casella postale dove la gente spedirà la cosa. Corriere che passa a Sassari, manda il corriere, metti a tiro apparati e poi si riporta. Chiava, è un casino. Quando è così è un casino che non coincide, capito? Cioè andare in macchina, ci sono 2 ore e mezza di macchina, 2 ore e mezza scende, 2 ore e mezza di salire, quindi uno lo può fare una domenica per una volta, ma oltre alla spesa che devi aggiustare o riparare o modificare, io pure in spesa di una benzina, di una nafta, capito? Infatti. Ma se ci tieni, tanto qua non c'è nessuno che si è mai messo a farli questi apparati. Lo stava facendo all'inizio, lo voleva fare Massimiliano, ma poi c'è troppo lavoro, non gli ha permesso di farli. Li stava per fare Massimiliano, li voleva fare. Chi? Massimiliano Archimede, tempo fa, li voleva fare questi apparati modificati, ecco. Ma poi il giro di lavoro non glielo concedeva perché stava anche segnando e cose qui. Raga, io l'altro giorno gli ho chiesto a vedere se mi metteva, se mi allineava il tornare, mi ha detto, dillo a Fabrizio che già ce l'ha lui la testatura. Vuol dire che non era fottinuta. Non è che non era fottinuta, non c'ha tempo. Non ha molto tempo, capito? Perché siamo di lavori, poi ha impegni anche in famiglia, quindi non è che abbiamo molto tempo. No, io non è che non ho detto che, cioè non è, magari che boh, non lo so, perché magari ci vogliono, boh, magari ci vuole un'ora di lavoro, capito? E magari anche le 30 euro, 40 euro fanno comodo in tasca, capito, per un'oretta di lavoro. Lo sai cosa c'è? Che qui in realtà si vogliono fare canale per canale, ogni canale e mettervi in frequenza, prendere l'altro canale, poi passare un FM e fare la stessa cosa. C'è un po' di priorità di tempo, capito? Se non ce l'ha il tempo uno, come fa? Cavolo, già andrà bene, ok. Adesso si deve prendere anche questo coso, questo ligaretto, diciamo, lo stanzo. Dillo a Vittorio, ma hai detto che doveva far salire, doveva mandare su frequentino il tuo Vittorio per farlo, perché ogni tanto bisogna mandare su ogni 6 mesi e farli riallineare, perché tanto è inutile che trovi frequenzimetro, che vai a allineare apparati quando magari è fuori frequenza che frequenzimetro. Per essere perfetto lo devi mandare sempre su in continente, perché qua non c'è nessuno che lo fa, e mi è fatto allineare. Gava gava, aspetta un attimo, già, 2 minuti. Vabbè, ma qui sono fesserie, a sapere la strumentazione, e avere un po' di pratica, già si fanno.